Elle avait des yeux d'opale, qui me fascinait, il y avait l'ovale de son visage pâle, de femme fatale qui me fut fatale, de femme fatale qui me fut fatale. Melog 2.0 di Gianluca Nicoletti. Chacun pour soi est reparti dans le tourbillon de la vie. Je l'ai revu un soir, aïe aïe aïe, ça fait déjà un femme bail, ça fait déjà un femme bail. Au son des banjos, je l'ai reconnu, ce curieux sourire qui m'avait tant plu, sa voix si fatale, son beau visage. So, e ammetto di non essere equo nelle scelte del mio pubblico, ma parte cospicua di coloro che mi ascoltano già sanno da ieri sera di cosa avremmo parlato oggi, perché ieri ho chiesto a quelli che mi seguono nei vari profili Facebook della trasmissione, cioè guardiamoci insieme la televisione questa sera, tanto tempo che non lo facciamo più, vediamo cosa accade e cosa succede. Beh, qualcosa è accaduto, Michele Santoro, uscito dalla Rai con il suo programma, ha reinventato la sua trasmissione, che è poi sempre la stessa trasmissione, la stessa che fa da decenni, però è interessante e divertente la maniera diversa di distribuirla. Era praticamente onnipresente su vari canali Sky, su alcune televisioni, circuiti televisioni private, nella televisione digitale terrestre, in vari siti internet dei maggiori quotidiani italiani, su Facebook 200.000 persone hanno dato il like, mi piace, sul suo profilo Facebook, quindi qualcosa è accaduto. Il punto che faremo questa mattina è sulla televisione. Sulla televisione non intesa come qualcosa di frammentato, qualcosa che ci accompagna, qualcosa che in fondo riempie i nostri spazi vuoti, gli spazi dell'immaginario che lasciamo vuoti dai pensieri, ma la televisione come una sua funzione pubblica. La televisione è ancora una funzione pubblica? Ha senso di parlare di televisione come servizio pubblico? Beh, questa mattina con persone qualificate e che hanno comunque impiegato parte importante alla loro esistenza professionale nella televisione, parleremo di televisione. Quelli che hanno guardato Santoro, se vorranno, esprimeranno il loro parere su quello che è stato questo esperimento di novità di distribuzione, non tanto di novità di programma. La televisione può essere qualcos'altro, qualcosa che riesce a sgusciare fuori dalle maglie strette dei grandi editori e autoproclamarsi, autoesistere lo stesso. 800 24 0024. Caro Enzo Biaggi, caro Montanelli, so che siete molto in apprensione per me, so che siamo stati molto diversi, ma so che ci state seguendo con grande passione in questo momento. La verità è che non se ne può più di resistere, resistere, resistere. E secondo me ha ragione Monicelli, bisogna fare una rivoluzione. E questa è la nostra piccola rivoluzione, civile, democratica e pacifica. Sono soltanto una persona che cerca di essere quello che è. Paolo Ruffini, buongiorno. Buongiorno. Paolo Ruffini è da qualche settimana direttore della Sette, è stato per quasi una decina d'anni, attraverso vicende anche con un certo travaglio di cui parleremo, travaglio non inteso nel parterre di Santoro, ma come reale e intenso problema professionale con il suo editore, direttore di Rai 3, a lui dobbiamo una serie di programmi importanti di cui parleremo. Paolo Ruffini, uscito dalla Rai per sua scelta, è diventato direttore della Sette, ma ha lasciato una sua testimonianza, ha scritto un libro che è un instant book, direi, sulla sua esperienza, sul suo punto di vista, si chiama Scegliete, discorso sulla buona e cattiva televisione, ADD Editore. Questa mattina con Paolo Ruffini, che lo dico subito in come apertura perché ci daremo del tu, è stato mio direttore nei tempi più felici per me professionalmente, anche per Radio Rai, in cui faccio questo programma Golem, che fu un momento importante secondo me della radiofonia nazionale. Paolo Ruffini, sei uscito dalla Rai dopo 10 anni, è stato diverso il tono di luce del sole il giorno che hai cominciato a lavorare in un'altra azienda? E un po' lo dico a tutti quelli che hanno passato questa esperienza, il servizio pubblico è un grande e importantissimo momento professionale per chiunque lo attraversi, ma una volta usciti da quello che viene chiamato oggi il luogo del servizio pubblico, ci si rende conto che il mondo gira un po' diversamente fuori. Sì, sono stato 15 anni appunto prima alla radio e poi era alla televisione, a Rai 3 in Rai, e quindi 15 anni di vita poi sono ti segnano, ti appassionano, e poi ero e continuo ad essere un tifoso del servizio pubblico come componente importante del sistema dei media e della democrazia di un paese. Detto questo, avevo lavorato prima nel settore privato, nei giornali, e adesso diciamo alla 7, e hai ragione, cioè il mondo non è tutto lì, e si vede anche il mondo in un altro modo, quindi penso che la cosa più importante del sistema della comunicazione nella televisione in particolare, ma nella radio, sia poi la libertà di pensiero, eccetera, diciamo, e la libertà di concorrenza. È molto bello e affascinante anche poterlo sfidare, il servizio pubblico. Senti, ma io sono convinto che, però, questa parola è un po' abusata. Secondo me Santoro potrà anche fare a meno chiamare servizio pubblico il suo programma, lo trovo un po' velletario, però rende l'idea. Anche dal punto di vista proprio del successo editoriale, non è anche un buon investimento fare programmi che ricordino, diano l'idea di essere programmi di servizio? Sì, a patto che non sia un alibi. A volte il tema del... Farlo liberamente, senza che nessuno te lo imponga. Sì, assolutamente sì, nel senso che poi se uno ci pensa, servizio pubblico vuol dire essere al servizio di chi ti guarda o chi ti ascolta, e quindi... presumibilmente di tantissima gente. A volte il tema servizio pubblico viene usato all'incontrario, cioè siccome bisogna fare il servizio pubblico non bisogna fare ascolti, mi sembra una grande... Sì, viene visto come una purga, come qualcosa che va fatta per forza, e siamo di servizio, una tassa da pagare, non solo nel senso del canone, ma una tassa da pagare nel senso dell'obbligo di far qualcosa. In realtà, diciamo, servizio pubblico vuol dire che ci deve essere il pubblico, e vuol dire che stai facendo qualcosa che il pubblico si aspetta, e vuol dire che stai facendo un servizio, cioè lo stai facendo con passione verso chi ti guarda, ti ascolta, e se ci sono queste cose lo può fare il privato e lo può fare il pubblico. Credo che il tema di come lo faccia il pubblico poi sia un altro tema ancora, quindi del come la RAI... Diciamo che tutto si capirà in Italia quando l'anomalia generale che esiste, indubbiamente, uno può pensarla come vuole, ma l'anomalia che la televisione è diventata qualcos'altro rispetto a ciò che tutti hanno sempre pensato che fosse la televisione, uno strumento forte, potente, onnicomprensivo, omologato, di salvaguardia del potere politico, questo in realtà è un momento che passerà. Quando, diciamo, non sarà più percepibile come personaggio politico la figura di Silvio Berlusconi, diciamolo, visto che è l'ossessione di questo paese, probabilmente si rivedrà. Anche Santoro dovrà fare altre trasmissioni, avrà altri bersagli. L'idea di servizio pubblico assimilabile appunto a una forte presenza militante diventerà qualcos'altro, diventerà veramente servizio pubblico. Ma non cambiano anche i pubblici, il pubblico sta cambiando fortemente. L'idea di servizio pubblico, ieri scarrellavo i vari canali televisivi mentre guardavo Santoro e guardavo cosa facevano in altri canali. A un certo punto ho visto Gerry Scotti, faceva uno di quei soliti programmi, Canterini e tutti. Dico, beh, vedi, lui probabilmente svolge un servizio per una certa fetta di pubblico. In altri canali c'era Don Matteo, c'erano altri programmi banalmente di servizio per un pubblico generalista. Ma finché rimaniamo attanagliati al fatto che il servizio pubblico sia compiacere il pubblico generalista, quindi quella fetta di italiani fortemente analfabeti, di età molto avanzata, con non grandissime necessità di elaborazione, faremo un servizio pubblico non più adeguato a come è cresciuto in realtà il paese? Ma io non la semplificherei così, nel senso che penso che il pubblico siamo noi nella nostra... composizione la più varia, quindi diciamo dove ci stanno effettivamente, come dire, gli anziani acculturati e quelli non acculturati, i giovani, eccetera. Allora penso che poi quello che dovrebbe caratterizzare il servizio pubblico è porsi il problema del pubblico nel suo complesso, e in particolare penso che ci sia una sola vera ragione, se parliamo del servizio pubblico inteso in Italia come la RAI, ma insomma c'è, cioè, il servizio pubblico in mano in un qualche modo, poi come è regolamentato, poi se ne può anche parlare, in mano al pubblico, è il tema della difesa della pluralità di approccio culturale nell'affrontare anche gli stessi temi, che vanno dall'intrattenimento all'informazione, non solo l'informazione. Cioè, se c'è una ragione dell'esistenza del servizio pubblico è che può essere più pluralista di come non possa essere, o tendenzialmente non è il mercato da solo, che quindi in qualche modo sfidi anche il mercato ad una concorrenza. Sì, perché chiunque può fare operazioni di servizio pubblico se in quel momento esioralmente gli conviene, gli piace, si sente. Siamo in una sede, Radio 24, che indubbiamente fa una radio tra virgolette da servizio pubblico, e nello stesso tempo esiste la radio del servizio pubblico. Il tema della radio del servizio pubblico è quello di difendere il pluralismo. Il tema di Radio 24 è quello di fare una televisione il più al contemporanea con il miglior grado di ascolti, e probabilmente avete scoperto che facendo questo tipo di radio, certo, è una missione che editorialmente fenomeno, conviene, perché certo, così pochi anni, diciamo, ha scalato posizioni. Non c'è un contratto di servizio per cui uno è obbligato a fare lo servizio. Si fa per una scelta, ecco. Però il punto è, chi ha un contratto di servizio per cui prende notevoli fondi pubblici per fare servizio pubblico, in realtà dovrebbe fare servizio pubblico. Ti sei interrogato in questi 10 anni cosa significasse per te fare servizio pubblico, rispondere a degli input che ti erano dati continuamente, fare attenzione a mantenere gli equilibri, o sinceramente seguire una tua precisa linea editoriale, come dovrebbe fare ogni direttore? Viene scelto l'editore perché ha fiducia che tu, la tua linea editoriale, soddisfi l'editore, quindi vai avanti per la tua strada. E ne hai fatte tante poi di cose, magari ne sentiamo qualcuna prima. Dal regista, il primo grande ospite di Parla con me, Quentin Tarantino! Noi sapevamo spaghetti western, yeah, invece Maccheroni Combat, sempre i nostri, yeah, italiani sono? Spaghetti western. Sì, quando c'è stato il declino? Sono gli italiani che hanno fermato la criminalità organizzata negli Stati Uniti. Sono i turchi che hanno fermato la mafia turca in Germania. È sempre la parte sana. Ecco perché ragionare così, solo con la repressione, ragionare sempre che ogni volta che c'è un blitz ci raccontano... Questi sono brandelli di televisione che nel servizio pubblico non ci sono più. Tu sai che per anni ho preso in giro la televisione, l'ho stracciata, ho sempre avuto mie posizioni molto eterodosse rispetto alla televisione, ho preso in giro il buonismo di Fazio, quindi sono stato anche una spina nel fianco per questi programmi. Però onestamente a me dispiace che questa fetta di televisione non esista più, anche semplicemente poterla guardare e vederne anche alcuni aspetti che non condividi. Ecco, come ti spieghi che in realtà la discrimine del servizio pubblico sia così fortemente legata alla necessità di mantenere un certo equilibrio, un certo consenso? Perché c'è un equivoco nel rapporto tra il servizio pubblico e la politica. Peraltro è un equivoco che molto spesso, diciamo, accomuna destra e sinistra, cioè la politica in generale per un fraintendimento, secondo me, pensa che il servizio pubblico sia il servizio ai partiti. E che sia, come dire, magari la somma di faziosità contrapposte. Io penso che il servizio pubblico sia invece la somma di pluralità di punti di vista e di maggiore libertà. Un'altra cosa che si dice è che il servizio pubblico deve garantire la qualità. Anche lì mi sembra un approccio pericoloso, scivoloso, nel senso, certo che ci vuole la qualità. Sembra un termine teorico, oggettivamente. Ma se la qualità è la qualità poco definibile, certificata da un ufficio magari burocratico, da una authority anche, o dal governo, peggio ancora, mi sento, diciamo, stiamo parlando di una roba da paese totalitario. Il servizio pubblico dovrebbe essere garantito dalla migliore libertà che lascia nell'approccio plurale alla realtà, perché mentre, diciamo, siamo a volte caduti in una cosa, il servizio pubblico deve dire la verità, come fosse la Pravda. Questo qua non ha niente anche a che le verità assolute non è difficile, non ha niente a che fare con la democrazia liberale. La verità assoluta è una ricerca, è un punto. Abbiamo sentito prima Saviano. Ecco, perché persone, scusa Paolo, siamo amici, ci conosciamo da anni, illuminate come te, poi devono scappare via dalla RAI. Anche persone che in fondo hanno una certa elasticità nel mondo come me devono scappare via dalla RAI. Perché dentro la RAI poi alla fine è difficile mantenere questa posizione? Però, diciamo, anche lì, diciamo, rispetto alla domanda che facevi all'inizio, insomma, valto da una parte uno può dire scappare via, dall'altra dire meno male che comunque viviamo in un paese dove magari meno che in altri un po' di mercato c'è, e la possibilità di costruirsi un modo per fare il proprio mestiere liberamente c'è, al di là del chiuso del servizio pubblico. Appunto, secondo me dentro la RAI purtroppo troppo spesso prevale l'idea che il servizio pubblico sia... abbia una minore libertà, o che il servizio pubblico, nel nome di questa, appunto, magari l'obiettività obiettiva, la verità veritosa, non so, sia obbligato a minore spazi di libertà. Questo è un errore clamoroso. E peraltro, diciamo, purtroppo, diciamo, lo si dice a destra, è un errore che viene commesso veramente a destra e a sinistra, perché l'idea è: ma io pago il canone, io ho questa idea, com'è possibile che nel servizio pubblico ci sia un'idea diversa dalla mia? E beh, come dire, com'è possibile che in una città viva gente che la pensa diversamente da me? Questo è un paese che ha perso l'idea che è giusto, è normale, anzi è una ricchezza avere idee diverse e poi confrontarsele, fare programmi di... Perché hai ragione tu, diciamo, non è che poi il servizio pubblico è solo l'informazione, cioè puoi avere un bel programma di intrattenimento. Ed è un programma di intrattenimento, non so... Fazio, ed è un programma di intrattenimento, la Dandì, ed è un programma di intrattenimento. Io vado pazzo per i soliti idioti che hanno fatto rabbrividire Concita De Gregorio, non li ha capiti. In realtà, a me non mi hanno fatto rabbrividire. È la critica più atroce a un modello di liberismo spietato e gretto che in questo momento stanno cercando di fare attraverso altri canali. Il padre del povero Gianluca è l'espressione più felice di quello che viene chiamato, fra virgolette, berlusconismo. Se non capiscono questo. Francesco, buongiorno. Buongiorno. Eccomi. Volevo sottoporre una riflessione relativa al fatto che secondo me la televisione non è assolutamente un servizio pubblico. Quale televisione? Ormai ne esistono tante. Televisione in generale, la televisione in quanto tale, perché è un servizio di massa. Allora, la televisione era un servizio pubblico negli anni 60, quando serviva per l'alfabetizzazione, serviva per dare informazioni che non erano acquisibili in nessun'altra maniera, serviva per rendere coeso un paese che non lo era per una serie di ragioni. Ma lei ha espresso tutte circostanze che ancora hanno ampi margini di soddisfazione. Abbiamo bisogno di essere alfabetizzati in tantissimi settori, abbiamo bisogno che qualcosa, trovare dei punti comuni per essere coesi. Non è che è finito questo processo? Non è finito, ma in realtà la televisione non è più lo strumento necessario e utile, perché in realtà ci sono altri strumenti. Si sa bene che chi vuole acquisire informazioni o avere la possibilità di ottenere strumenti per puntare a una coesione nazionale lo può avere attraverso altri canali scevri da diverse influenze. Proprio non c'è riuscito nessuno, però, Francesco. Io ho detto, Santoro all'inizio fa una vecchia televisione, quella che ha sempre fatto, e chapeau di fronte al mestiere di Michele, però ha cominciato a scandagliare dei percorsi nuovi. Guardi che internet è divertentissimo, ci gioco da 20 anni, ma oggi funziona, diciamo, ha avuto 200.000 contatti su Facebook. Perché? Perché c'era dietro la televisione, perché c'era il vecchio medium che comunque in qualche maniera dà autorevolezza e esistenza al nuovo medium. Da solo internet niente, è vocio disperato e basta. Su questo però vorrei coinvolgere un altro collega, un altro amico, visto che stamattina sembra una rimpatriata. Piero Dorfles, buongiorno. Buongiorno. Piero Dorfles è sul miglio verde. È un collega Rai, una delle poche persone che ancora si occupa di cultura dentro la Rai. Lo fa in un programma di libri per ragazzi, non so nemmeno ancora lo stai facendo, però ha scritto un libro molto interessante sui brontosauri della cultura, come una sorta di residuo che non ha più ragione di esistere, in via di estinzione. Ecco, tu come la vedi, Pier? Innanzitutto, hai visto te il programma di Santoro? Certo, come si poteva non fare. Dimmi il tuo punto di vista. Ma innanzitutto, premessa, scusa se faccio questa cosa, ma devo salutare prima Paolo Ruffini. Buongiorno Paolo. Ciao Piero. Non posso non ricordare che Ruffini è stato negli ultimi anni forse l'unico direttore alla RAI che ha servito il pubblico come si deve, nel senso che la grande maggioranza dei direttori servono dei mandanti politici, mentre invece quello che è fondamentale appunto del servizio pubblico deve essere quello di pensare al pubblico e non a chi ti ha messo lì, e quindi tanto di cappello per aver resistito fino adesso. Ma torniamo a Santoro. Certo, come dicevi tu, non ha cambiato la sostanza, era il solito Santoro, però ha cambiato lo strumento, la piattaforma. E questa è la novità. A me sembra sia una novità che fa pensare a qualcosa di un po' più sostanzioso del semplice Santoro. Come diceva prima Francesco, il servizio pubblico negli anni 60 insegnava a leggere e a scrivere. Non è che oggi deve essere diverso, non è che la televisione può essere diversa, è diverso il pubblico. Non ha più bisogno di leggere e scrivere, ha bisogno di qualcosa di un po' più progredito, e quindi non può più essere la televisione di una volta. Siamo tutti molto più diversi, una volta eravamo più uniformi, più banali anche se vogliamo, con meno idee. Oggi abbiamo bisogno di cose più complesse, e per questo abbiamo bisogno anche di un pluralismo più esteso di quello che non possono dare poche reti di servizio pubblico o poche reti di servizio privato, perché sono onestamente poche quelle nazionali. In tutto abbiamo 7 reti nazionali. Bene, la nascita di questa nuova dimensione di Santoro ci fa pensare che esiste ancora un altro spazio, e che per certi versi forse lì si possono sviluppare quei pluralismi che il servizio pubblico mano ai partiti della RAI non può più dare, e come giustamente dice anche nel suo libro Ruffini, dare quella possibilità di garantire una rappresentazione pluralista della realtà che non sia chiusa dentro quella che emana o dalla grande impresa o dal potere politico. Quand on s'est connu, quand on s'est reconnu, pourquoi se perdre de vue, se reperdre de vue, quand on s'est retrouvé, quand on s'est réchauffé, pourquoi se séparer? Melog 2.0. Ciao papà. Ciao Luca, vuoi smettere di martirizzarti di sera davanti a sto cazzo di computer? Guardate, mi pare il figlio da merda. Esci un po', cazzo, fai qualcosa e smetti di rubare i soldi a tuo padre. Papà, stavo controllando la porta. Ma vaffanculo, Gianluca, ma che cazzo dei controlli? Tu dei controlli le palle! Tanto fino a che stai qui dentro, sta cazzo di cripta puzzolente, le palle te restano mosce! Gianluca, ce l'hai la ragazza? Sì, è Fabiana, l'hai conosciuta, la maestra d'asilo. Maestra d'asilo, bravo! Con una pederasta come te ne sei messo! Con sta poveraccia morta di sonno, proprio una bella coppia fate! 800240024, stiamo parlando di televisione, servizio pubblico, ma non a caso mando un pezzo dei soliti idioti, Ruggero e Gianluca, sono Fabrizio Biggio e Francesco Mandelli, che sono i due comici che sono emersi improvvisamente. Io stesso mi sono accorto della loro esistenza perché so che da anni mio figlio li guardava, sedicenne, non sapevo della loro esistenza, li ho guardati e ho capito che in realtà nella crudezza, nella volgarità, nell'esasperazione del linguaggio esprimono in realtà una delle forti e crudeli realtà del nostro tempo, l'incomprensione fra genitori e figli, un senso non profondamente metabolizzato di visione etica e religiosa della vita nei due pretini che devono fare le campagne marketing per il Papa, il politicamente corretto che mostra tutti i suoi punti deboli, due omosessuali che vogliono un figlio, quindi fanno il test gravidanza e via dicendo. Tutto questo è anche televisione, tutto questo nasce attraverso un tam-tam di internet, di ragazzi che si passano i file, di piccoli programmini in televisione minori, poi diventano un grande film e oggi è l'evento. Ma la televisione è servizio pubblico, comunque usando lo stesso metodo di dissoluzione, di distruzione del linguaggio, di uso del paradosso, aveva fatto qualcosa. Buonasera al Presidente del Consiglio, Silvio Berlusconi, bentornato a Ballarò. La ringrazio, ma il mio è un ritorno di protesta. Come sapete, il Papa ha fatto questa rivelazione importante, e cioè che Dio non si fa sentire perché si vergogna di noi, si schifa della violenza dell'uomo, ed è per questo che non si manifesta più. Io personalmente ho avuto in queste parole purtroppo una conferma al mio timore, cioè che quando prego Dio lui fa finta di non conoscermi, ho la propria sensazione di questa testa che si gira dall'altra parte. Padre Cloaca. Beh, non è proprio così, guardi. Mi dispiace, lei sta fuori strada completamente. Non però è come pensa lei. Paolo Ruffini, ricordo direttore della Sette, autore del libro Scegliete, discorso sulla buona e cattiva televisione, ADD Editore, che è il libro in cui Ruffini è uscito dalla Rai e ha iniziato una nuova avventura alla Sette, è rete che è piena di speranze, piena di attese. No, ho messo in contrapposizione, Paolo, due tuoi programmi, Corrado Guzzanti, Floris, una tua scoperta, un collega del giornale Radio, abbiamo lavorato insieme per tanti anni, e I soliti idioti, che adesso è il clou del momento. In fondo l'idea di usare un linguaggio diverso, di usare anche l'improvvisazione, l'uscita dalle regole, gli schemi elastici, era qualcosa che esisteva a Retre. Era a prescindere da me, perché lo era da ben prima che io vi arrivassi, diciamo, lo è stata dai tempi di Guglielmi, che l'ha praticamente fondata e plasmata, assolutamente sì. E mantenerla non era facile. Mantenerla non era facile perché appunto c'è un... Guglielmi galleggiava nel consenso, dopo non è più stato così. Dopo non è stato più così, perché dopo si è affermata un'idea di come che il servizio pubblico dovesse essere una minestra riscaldata, non dovesse mai... esercitare quel a volte quel politicamente scorretto, comunque diciamo l'idea della libertà come anche scarto diciamo, quindi diciamo uscire fuori dagli schemi, provare a rovesciare i punti di vista, diciamo ingaggiare persone geniali come Corrado Guzzanti, che certamente, come dire, ti spiazza, ma credo che il servizio pubblico non debba mai spiazzare, non debba in qualche modo confermare e appunto essere una minestra, più o meno una minestrina tiepida che viene propinata dallo Stato. Ecco, quella è un'idea proprio totalmente sbagliata, che lo riduce a una funzione residuale. Quindi quello che poi, diciamo, nel solco appunto di Guglielmi, quello che negli anni in cui sono direttore di Retre abbiamo provato a fare, è quello di mantenere questo principio, azzeccando delle volte, sbagliando. Quali sono state le tue gatte più pericolose da pelare? Cioè, quali sono stati i momenti di maggior difficoltà nel voler mantenere una linea? Ce ne sono stati tanti, perché appunto, diciamo, su Ballarò diciamo, l'idea era che non si potesse esercitare il diritto di critica, che non si potesse avere, per esempio, dentro la satira come copertina e come punto di vista totalmente, diciamo, spiazzante. Però sai che è il programma che vanta più tentativi di imitazione da parte Mediaset. Floris lo prenderebbero subito. Sì, probabilmente l'ho anche dichiarato. No, lo so per voce certa. E anche lì, assumendo un punto di vista sbagliato, non è, Floris non fa propaganda, no? Floris fa giornalismo, cerca di farlo nella maniera più libera possibile, ma poi appunto i programmi di satira, abbiamo sentito la Dandini che poi alla fine, diciamo, dopo una vicenda più o meno... Te la riprendi adesso? Tormenta. Spero di sì, adesso vediamo, insomma, poi le cose penso sia giusto annunciarle quando si sono chiuse, ma insomma certo la Dandini... è sul mercato e tutto si può dire tranne che non sappia fare televisione, è uguale a quello che dicevi tu su Santoro, cioè poi dopodiché io penso che in maniera diversa la 7 e Santoro possano giocare partite complementari, cioè una rete piccola, quindi che può ambire a cose che un anno fa, un anno e mezzo fa erano impensabili, no? Cioè, diciamo che però la 7 non se l'è preso Santoro. La 7 Santoro non l'ha preso, io sono arrivato dopo che la cosa... è avvenuta, diciamo, e quindi diciamo so tutto quello. Tu lo saresti preso? Io penso che Santoro sia una grande risorsa della televisione, quindi personalmente penso che io lo avrei preso, ma credo anche che Santoro avresti stappato lo champagne, ma... se era la 7. Sì, anche se la 7 stappa, diciamo, quasi tutte le mattine, ma diciamo, Formigli lo ha dichiarato lo stesso, Santoro è un grande giovane protagonista della televisione ed è uno che ha... Beh, su di lui c'è l'anatema del figlio che ha tradito il padre, però ha fatto bene, è l'unica maniera per sopravvivere. Però ecco, diciamo, credo che alla fine diciamo appunto mi piace dire la complementarietà nel senso che Santoro alla fine ha scelto anche lui, non è solo la 7 credo che abbia scelto, ma insomma è stata una scelta condivisa in qualche modo, secondo me nel suo status ideale, perché adesso Santoro non ha più un editore con cui prendersela. Quando lui dice ho fatto stiamo facendo la rivoluzione, lui non ha un editore con cui prendersela, è se stesso e sta in effetti, diciamo, innovando dal punto di vista della distribuzione del contenuto il sistema televisivo. Con una cosa in più rispetto a quella che è da quando esiste internet, lo diceva prima... No. L'ascoltatore, no, anche Francesco, no, che diceva, in fondo tutti possiamo usufruire dell'informazione e non solo dell'informazione, diciamo, da altri mezzi rispetto alla televisione. Poi certo non è realistico pensare che aboliamo la televisione. Alla fine tutti vogliono una mediazione. Però la cosa molto interessante da seguire l'esperimento di Santoro è che lui mette insieme questa, diciamo, libertà di fruizione e questa essere multipiattaforma a un appuntamento classico da TV generalista. Cioè che è un po' un controsenso. O forse una sfida più avanzata ancora, perché io penso che ogni tanto si teorizza la fine della TV, anche diciamo in qualche modo lo diceva questo ascoltatore, la fine della TV generalista. Io penso che siccome noi siamo comunque esseri sociali, l'idea di guardare una cosa contemporaneamente ad altri, che equivale come ad andare ad una manifestazione. La forza dell'integrazione con internet è stato questo, lo guardavano, la gente commentava in diretta. E quella roba lì che è il tessere una comunità, no? Diciamo, quella è la TV, è anche la TV generalista, è comunque il nostro essere sociale, e Santoro è riuscito in questa cosa che appunto sembrerebbe una contraddizione, in realtà non lo è, cioè io ti posso vedere da qualsiasi piattaforma, ma ti voglio vedere a quell'ora. Sentiamo qualche ascoltatore, Gaetano, veloce. Buongiorno, sono Gaetano Amato, saluto Paolo Ruffini, è stato direttore quando io ero ancora lì alla squadra. Ah, un attore protagonista della squadra sei, sì. Volevo dire, in effetti quello che stavate dicendo è proprio lo specchio di quella che è la televisione adesso. La 7 non ha preso Santoro, la 7 forse prende la Dandini. Secondo me il punto importante non è chi vi prende, è chi vi ha lasciati andare via. All'interno della TV pubblica, quella che viene chiamata TV generalista, si sono formati tanti piccoli feudi ormai. E se non appartiene a quei feudi sei fuori. Beh, le posso dire che un po' è sempre stato così. Io la conosco dagli anni Ottanta. Ma adesso è un po' di più. Sì, adesso è un po' di più, in effetti. No, adesso è solo quello. Quello il fatto. Diciamo, infatti, questa serie di feudi, io ieri sera ho visto Santoro, per me era come vedere il trattamento del giovedì sera della TV generalista, ma viva Dio, se la TV generalista è fatta in questo modo, che sia di destra... No, sai qual è il rischio che corre in questo momento la TV generalista? il servizio pubblico, che la gente non fa più differenza, vede Santoro appunto. Comunque come se lo vedesse Rai, quindi non è più la dignità dell'editore, la cornice dell'editore che dà esistenza a un programma. Il programma, se ha un mercato, può galleggiare comunque e ovunque. Grazie Giovanni. Giovanni, buongiorno. Buongiorno. Io in Italia, secondo me, il servizio pubblico riguardo alla televisione, secondo me è inesistente. Beh, inesistente. La televisione, no, l'informazione dovrebbe. È un divago, non è inesistente. A volte c'è, a volte sì, molto a meno. Volte c'è, a volte non c'è. Sì, bisogna leggere fra le righe, certo, sicuramente. Però l'informazione deve essere presentata al pubblico per essere un servizio pubblico nel modo più obiettivo possibile. Eh no, abbiamo già detto, l'obiettività è un'utopia. Leviamoci di dosso questa dell'obiettività, di essere pluralista, come diceva giustamente Ruffini. Tante persone esprimono il loro parere, poi i punti di vista, le conclusioni, le tira ognuno. Io non sono il suo maestro, non devo dirle come deve pensare. Devo, perché ho gli strumenti, le fonti primarie, mettere a disposizione più strumenti di lettura possibile in realtà. Almeno la penso così, Paolo. La penso uguale, vede. Giovanni, io penso questo, diciamo, ognuno di noi, se lei adesso sta ascoltando questa nostra trasmissione, poi esce di casa, non so, e la racconta a qualche suo amico, e sarà un racconto diverso da quello di Gaetano Amato, diverso da quello dell'altro ascoltatore, inevitabilmente, il che non vuol dire che è falso, ma perché lei magari le sarà rimasta impressa una cosa giusta o una stupidaggine che ho detto io, o una cosa giusta che ha detto Gianluca, o così. E la realtà, per come noi la raccontiamo, ma anche se noi facciamo una foto, no, uno sceglie una prospettiva, un punto di vista. L'importante, io credo, nell'informazione è essere corretti. L'importante nel servizio pubblico è essere corretti e pluralisti. Se noi pensiamo che il servizio pubblico debba dire la verità obiettiva, poi in realtà noi, senza raccontarcelo, questo è almeno il mio pensiero, noi pensiamo che debba dire la nostra versione della verità, che comunque è la nostra, e quindi noi pensiamo al servizio pubblico come propaganda del nostro pensiero. Io penso che questo, diciamo, estremizzando, però questo è il rischio da evitare, come veramente, come è la sindrome del blogger che pensa che il suo blog sia il punto di lettura dell'universo. Non può essere questo, non può essere esattamente questo. Diciamo, è un punto di vista, e allora confrontiamo. Quello che noi dovremmo pretendere dal servizio pubblico è quello, che questa pluralità sia rappresentata. Se il servizio pubblico diventa il megafono di un'unica verità, che poi sarà la verità della maggioranza di governo inevitabilmente, ma noi diciamo, quale che sia la maggioranza, quindi non è un tema che oggi c'è Berlusconi e domani ci sarà chissà chi altro. Il servizio pubblico è esattamente l'opposto, è quello. Devo fermarti, Paolo, scusa un attimo, dobbiamo dare velocemente la linea di informazione del traffico, riprendiamo tra un istante. 800 24 0024. Melog 2.0. Elle avait des bagues à chaque doigt, des tas de bracelets autour des 800 24 0024. Stiamo parlando di televisione, soprattutto di concetto del servizio pubblico, con Paolo Ruffini, direttore, neo direttore della 7, che è uscito dalla Rai scrivendo un libro, Scegliete, il discorso sulla buona e cattiva televisione, ADD editore. E questa mattina stiamo cercando di raccontare, esemplificare il contenuto del suo libro attraverso, appunto, le risposte di Ruffini rispetto alla possibilità di fare una televisione che non sia la televisione che già conosciamo, che già vediamo, una televisione che sia anche criticabile ma che rappresenti un po' tutti. Sentiamo qualche ascoltatore ancora. Andrea. Pronto? Buongiorno. Buongiorno. Sì. Senta, io per lavoro mi occupo di informazione sul web, lavoro in una piccola emittente sul web. Uh-huh. E sostanzialmente ho cercato sui motori di ricerca, prima delle immagini trasmesse in televisione dell'uccisione di Gheddafi, e dopo, se c'erano dei cambiamenti di ricerca al nome Gheddafi, omicidio Gheddafi, uccisione Gheddafi. Ebbene, circa il 36-37% in più di click sul nome dopo che le immagini sono state trasmesse in televisione. E badate bene che era una delle prime volte negli ultimi anni in cui le immagini sull'uccisione di Gheddafi prima sono passate attraverso la televisione generalista e poi sono arrivate sul web. Questo cosa vuol dire? Che ormai la gente si informa rapidamente con la televisione generalista, ma non la ritiene affidabile e, come dire, fonte di verità, e poi ricerca la conferma sul web. web, e in questo Santoro è stato molto furbo, perché accusato di essere fazioso, di non essere obiettivo, in questo modo raggiunge un'aura di autorevolezza a quello che fa, pur confezionando un prodotto. Ma più che furbo direi è stato abbastanza bravo a rimettersi in gioco usando al meglio quelli che sono i mezzi. Il web da solo serve poco, il web ancora bisogna essere corroborato dai mezzi di comunicazione e di diffusione del sapere tradizionale. È chiaro che il video di Gheddafi, una volta che passa un telegiornale, esplode in internet. Una cosa è vederlo in internet, una cosa vederlo in televisione e andarlo a rivedere in internet. Lei, visto che lavora in questo campo, mi insegna, sa meglio di me che è bello lavorare su questi nuovi mezzi, ma alla fine serve sempre la terza gamba del tavolo, quella che lo fa stare in piedi e che la televisione ne parli. In Italia, a parte la Gospia, che è diventato un sito di riferimento, le realtà web prima di emergono quando ne parla la televisione. Domenico, sì, buongiorno. Pronto. Sì. Sì, pronto, sì, buongiorno. No, molto rapidamente, una piccola premessa. Io non, sennò sembrerebbe che una critica, io non sono assolutamente, come dire, filo governativo. Però, ma mica è un male esserlo, non esageriamo in un'altra. No, perché sennò sembrerebbe, tante volte un po' anche dalla stessa parte le critiche devono arrivare. Allora io, intanto, Rai 3 per me è stato questi anni, sia con Guglielmi che con Ruffini, assolutamente geniale, ma anche proprio solide per la scelta dei film che abbiamo visto. Quello che mi dispiace, e le faccio subito un paragone così poi non vi rubo nemmeno troppo, per esempio io Gabanelli secondo me fa servizio pubblico, Floris, Santoro e Fazio sono così tanto schierati che a me piacerebbe vedere, ma proprio perché servirebbe per il pluralismo, dovrebbero essere loro dare i primi, non so perché sono sempre ospiti dichiaratamente schierati da una parte, ma ci sono. Beh, no, scusi, adesso non puoi dire in Italia. Una delle caratteristiche del programma di Floris, lui la può pensare come vuole, figuriamoci se voglio difendere qua Floris, è che c'è il guazzabuglio proprio perché sono personaggi di tutti i tipi, di ogni schieramento, e nella gestione del dissenso o del contrasto che funziona quel programma, funziona proprio perché c'è dibattito. Poi qualcuno può dire lui fa domande più ficcanti a quelli che sono i suoi nemici e più buone a quelli che sono, questo è un altro punto di vista, comunque mi sembra che lì sia abbastanza rappresentato. Paolo Ruffini, su quest'ultimo ascoltatore. Sì, io cioè il metodo Floris funziona, cioè, perché sennò Mediaset non lo vorrebbe nelle sue file, questo che ti rispondo. Sono comunque programmi diversi, condivido pienamente, diciamo, su la Gabanelli da servizio pubblico, però tanto per dire, diciamo, quelli che la criticano, e sono tanti anche quelli che la criticano, che magari fanno esposti all'autorità delle comunicazioni per criticarla, eccetera, sostengono esattamente il contrario, che la Gabanelli è portatrice di una visione della realtà nella sua inchiesta. Preconcetta, come dire, lei elabora un suo teorema. Io non penso questo, certamente lei fa un'inchiesta e le inchieste hanno un punto di vista, come dicevo prima, partono da una premessa e arrivano a una conclusione, e la conclusione della Gabanelli, nessuno pretende di avere la verità in tasca o di addomesticare il pubblico, però certamente sono inchieste e quindi hanno una premessa, un punto di uno svolgimento e un punto di vista, una conclusione. Floris in realtà, diciamo, il mio punto di vista è che è un programma che mette in scena che cosa? Una roba a cui noi italiani siamo stranamente disabituati, la viviamo come quasi fosse un'anomalia, una discussione politica fra gente che la pensa diversamente. E quanto di più bello, guai se la pensassimo tutti allo stesso modo, però da Floris davvero c'è la destra, il centro, la sinistra, la Confindustria, i sindacati, la Polverini, tutti i sindacati. Da Floris. Floris ha, diciamo, l'involontario, tra virgolette, merito o demerito, come si è inventato la Polverini. Di aver contribuito a far diventare un personaggio, e quindi la Polverini, invitando un sindacato che non veniva mai invitato in televisione, proprio in ossequio a un principio di pluralismo. Quindi quanto riguarda Fazio, altra cosa ancora, io penso, ma perché noi dobbiamo pensare che il servizio pubblico significhi che qualcuno diverso dal conduttore e dalla sua squadra decida chi invitare? Perché vuole, ha una curiosità intellettuale nel conoscere quella persona, nel conoscere come la pensa, perché dovrebbe esserci un'autorità superiore a dire no, siccome hai invitato Paolo devi invitare anche Gianluca o Giacomo o Giovanni, perché... Che ammazza sarà, ogni pathos e ogni trasmissione. Perché diciamo, le trasmissioni sono fatte anche di questa, appunto, di questo pathos, di questa alchimia che si crea. Dopodiché c'è Fazio e ci può essere, diciamo, non so, altri programmi. Io penso che il sistema televisivo nel suo complesso debba essere pluralista e la RAI nel suo complesso debba essere pluralista, non che ogni programma debba avere l'elenco degli ospiti stilato da chi poi? Da Paolo, chi? Possiamo dare l'ultimo minuto a Piero Dorfis, che ci ha ascoltato in silenzio con grande pazienza finora. Vorrei sentire proprio il punto di vista di chi ancora sta dentro il servizio pubblico, ci starà qua per qualche mese. Una battuta che siamo in sigla. Molto semplicemente questa cosa che la Commissione parlamentare sta invitando a fare, cioè di avere addirittura due conduttori cui ognuno dice la sua, nega la base di tutto quello che può essere il servizio pubblico. Nel suo libro Ruffini dice: la qualità della democrazia è connessa con la libertà della stampa e della televisione. Ecco, io credo che ci sia un forte sintomo di mancanza di libertà in questo momento nella televisione, e per questo che, se Dio vuole, nascono cose come quella prodotta da Santoro e la qualità della Sette, e io penso che siano il sintomo di una democrazia che sta soffrendo. Temo che questo sia l'inizio della fine di quello che è stato il servizio pubblico, forse è giusto così, supereremo questa cosa. Piero, è anche la fine purtroppo di questa trasmissione, perché ai 56.30 mi segano definitivamente. Saluto te, saluto Paolo Ruffini, saluto e ringrazio. Melog 2.0. Alors tous deux on est repartis dans le tourbillon de la vie. On a continué à tourner, tous les deux enlacés, tous les deux enlacés.